Ad alta voce, Tommaso Ragno legge Frankenstein di Mary Shelley. Traduzione di Luca Lamberti. Londra rappresentò per noi una tappa. Decidemmo di fermarci alcuni mesi in questa meravigliosa e celebre città. Clerval desiderava entrare in relazione con gli uomini di ingegno e di talento che vi fiorivano allora, ma questo per me rappresentava un obiettivo secondario. Mi preoccupai, soprattutto, del mezzo di ottenere le informazioni necessarie all'adempimento della mia promessa, e subito mi valsi delle lettere di presentazione che avevo portato con me, indirizzate agli studiosi più noti di filosofia naturale. Se avesse avuto luogo al tempo dei miei studi, quel viaggio sarebbe stato per me fonte di inesprimibile piacere. Ma un'influenza maligna pesava sulla mia vita, e visitavo quelle persone solo per ottenere informazioni su un argomento per cui avevo un interesse così atroce e profondo. La compagnia mi riusciva ostica. Quando ero solo, potevo immergermi nella contemplazione del cielo e della terra. La voce di Harry mi placava, e potevo così fingere con me stesso una pace illusoria. Ma la gente attiva, poco interessante o felice, riportava la disperazione nel mio cuore. Vedevo una insormontabile barriera drizzarsi fra me e i miei simili, una barriera sigillata dal sangue di William e di Justine. E pensare agli avvenimenti collegati ai loro nomi mi riempiva l'animo di angoscia. Ma in Clerval vedevo l'immagine di quello che ero stato. Sempre gli faceva domande, ansioso com'era di accumulare esperienza e sapere. La differenza di abitudini di cui era spettatore era per lui fonte inesauribile di conoscenza e di diletto. Stava anche proseguendo un obiettivo a cui pensava da tempo. Voleva visitare l'India, convinto che con la sua conoscenza dei vari idiomi di quel paese e con l'opinione che si era fatto di quella società, avrebbe potuto contribuire attivamente allo sviluppo della colonizzazione e del commercio europei. E solo in Inghilterra poteva fare progredire l'esecuzione del suo progetto. Era sempre indaffarato, e la mia malinconia e afflizione erano la sola ombra sulla sua gioia. Io facevo del mio meglio per nascondergliele, per non privarlo di quei piaceri naturali a chi entri in un ambiente nuovo senza essere turbato da affanni o da cupe riflessioni. Spesso, per poter rimanere solo, rifiutavo di accompagnarlo, adducendo come pretesto qualche impegno. Cominciai anche a raccogliere il materiale necessario alla mia nuova creazione, e ciò costituiva per me una tortura peggiore dello stilicidio. Ogni volta che vi pensavo, soffrivo atroci spasimi. Ogni parola che dovevo dire in proposito rifaceva tremare le labbra e palpitare il cuore. Eravamo a Londra da qualche mese quando ricevemmo dalla Scozia la lettera di un amico che era stato nostro ospite a Ginevra. Egli ci decantava le bellezze del suo paese e ci chiedeva se non ci sentivamo attratti a spingere il nostro viaggio verso il nord, fino a Perth, dove dimorava. Clerval aveva una gran voglia di accettare questo invito, e io, per quanto rifuggissi dalla compagnia, desideravo vedere di nuovo le montagne, i torrenti e tutte quelle meraviglie di cui la natura adorna le sue dimore preferite. Eravamo arrivati in Inghilterra all'inizio di ottobre, ed era ormai febbraio. Decidemmo di iniziare il nostro viaggio verso nord al termine del mese successivo. In questo giro non avevamo intenzione di seguire la grande strada di Edimburgo, ma di visitare Windsor, Oxford, Matlock, i laghi del Cumberland, calcolando di terminare questo giro verso la fine di luglio. Imballai i miei strumenti chimici e i materiali che avevo raccolto, deciso a portare a termine il mio lavoro in qualche angolo remoto degli altipiani settentrionali della Scozia. Lasciammo Londra il 27 di marzo e ci fermammo qualche giorno a Windsor, a visitare la splendida foresta. Era un paesaggio insolito per noi, abituati alle montagne. Le querce maestose, l'abbondanza di selvaggina, i branchi di magnifici cervi rappresentavano per noi altrettante novità. Di lì passammo a Oxford. Entrammo in questa città, compresi del ricordo degli avvenimenti che vi si erano svolti più di un secolo e mezzo addietro. Lì Carlo I aveva radunato le sue forze. Quella città gli era rimasta fedele quando tutta la nazione aveva disertato la sua causa per abbracciare lo stendardo del Parlamento e della libertà. La memoria del re sfortunato e dei suoi compagni, l'amabile Falkland e l'insolente Goring, della regina e del figlio, dava un interesse particolare a ogni parte di questa città dove si supponeva avessero abitato. Lo spirito dei vecchi tempi vialeggiava ancora e noi ci divertivamo a cercarne le tracce. Se questi sentimenti non fossero bastati a soddisfare la nostra fantasia, l'aspetto del luogo aveva in sé sufficiente bellezza per imporsi la nostra ammirazione. Gli edifici universitari erano antichi e pittoreschi, le strade magnifiche, e l'Isis, che sfiora la città fra prati di un verde delizioso, si allargava in placide distese d'acqua che riflettevano, circondate da antichi alberi, il maestoso insieme di torri, guglie e cupole. Godevo di questo panorama, ma la mia gioia era amareggiata dal ricordo del passato e dalle prospettive per il futuro. Ero nato per una felicità tranquilla. Durante i miei anni giovanili, mai lo scontento era penetrato nel mio animo. Semmai mi ero lasciato vincere dall'ennui, lo spettacolo di ciò che è bello in natura o lo studio di ciò che l'uomo ha fatto di eccelso. Bastava interessare e soddisfare il mio spirito. Ma io sono un albero sradicato. La folgore ha colpito la mia anima e sentivo che sarei sopravvissuto solo per mostrare quello che presto cesserò di essere. Un miserabile relitto umano, oggetto di pietà per gli altri e di orrore per se stesso. Ci fermammo abbastanza a lungo a Oxford e girammo per i suoi dintorni cercando di identificare i posti che potevano avere rapporto con l'epoca più turbolenta della storia inglese. I nostri brevi viaggi di scoperta venivano spesso prolungati dagli obiettivi che via via ci si presentavano. Visitammo la tomba dell'illustre Hampden e il campo su cui questo patriota cadde. Per un momento la mia anima si elevò al di sopra delle sue vili e miserabili paure, per contemplare i divini concetti di libertà e di sacrificio di cui questi luoghi erano monumento e ricordo. Per un momento osai scuotere le mie catene e guardarmi attorno con animo libero e nobile, ma il ferro mi era penetrato nella carne, e io, tremante e senza speranza, ripiombai nel mio miserabile stato. Lasciammo Oxford con rimpianto e raggiungemmo Matlock, che rappresentava la nostra tappa successiva. Lì il paesaggio ricorda molto da vicino la Svizzera, ma ogni cosa è su scala più piccola e le verdi colline mancano della corona delle Alpi, bianche e distanti, che sempre accompagnano le montagne coperte di pini della mia patria. Visitammo la grotta meravigliosa e i piccoli musei di storia naturale, dove le curiosità erano disposte come nelle raccolte di Servo e di Chamonix. Quest'ultimo nome mi faceva tremare quando Henri lo pronunciava, e mi affrettai a lasciare Matlock, che si ricollegava in tal modo a quel terribile incontro. Stringemmo anche qualche amicizia, che mi costrinse ad assumere un'aria di spensieratezza. La gioia di Clerval era di gran lunga superiore alla mia. La sua mente si apriva in compagnia di uomini di talento, ed egli si accorse di avere capacità e risorse maggiori di quelle che aveva immaginato di possedere quando frequentava persone a lui inferiori. «Potrei passare qui tutta la vita», mi diceva, «e fra queste montagne non rimpiangerei la Svizzera né il Reno». Ma si accorse è quella del viaggiatore. È una vita che fra le gioie nasconde qualche pena. I suoi sensi sono sempre allerta, e quando comincia a lasciarsi andare, si vede costretto a lasciare il luogo in cui soggiorna, per qualcosa di nuovo che esige la sua attenzione e che a sua volta verrà lasciato per altre novità. Non avevamo ancora finito di visitare i laghi del Cumberland e del Westmoreland, e già stavamo stringendo amicizia con qualche abitante di quei luoghi, quando venne il tempo del nostro appuntamento con l'amico scozzese e riprendemmo il nostro viaggio. Per parte mia la cosa non mi spiacque. Avevo trascurato per qualche tempo la mia promessa e temevo le conseguenze della collera del demone. Poteva essere rimasto in Svizzera a sfogare la vendetta sui miei cari. Quest'idea mi ossessionava e tormentava in tutti quei momenti in cui avrei potuto altrimenti trovare riposo e tranquillità. Attendevo le lettere con febbrile impazienza. Se ritardavano mi sentivo infelice e sopraffatto da mille timori. Quando arrivavano e vedevo la calligrafia di mio padre o di Elizabeth, quasi non osavo leggerle, per tema di conoscere il mio destino. Qualche volta pensavo che il mio nemico mi seguisse, che tramasse di punire la mia trascuratezza, uccidendo il mio compagno. Quando una simile idea si impossessava di me, non lasciavo Henri per un solo momento, ma lo seguivo come un'ombra, per proteggerlo dall'ira del suo distruttore. Mi sembrava di avere commesso un grave crimine il cui rimorso mi perseguitasse. Pur senza colpa, mi ero attirato sul capo una maledizione terribile, fatale come quella che segue un delitto. Visitai Edimburgo con occhi e mente assenti, pure la città avrebbe potuto interessare l'essere più infelice. A Clerval, Edimburgo non piacque come Oxford, la cui atmosfera antica era molto più consona a lui, ma la bellezza e la regolarità della parte nuova della città, il suo romantico castello, i suoi dintorni, fra i più belli del mondo, Arthur Seat, St. Bernard's Well, le Pentlands Hills, lo compensarono ampiamente e lo riempirono di allegria e di ammirazione, ma io ero impaziente di raggiungere la meta del nostro viaggio. Lasciammo Edimburgo dopo una settimana, e attraverso Cupar, St. Andrew e lungo le rive del Tay, raggiungemmo Perth, dove il nostro amico ci aspettava. Ma non ero in vena di ridere o chiacchierare con estranei o di interessarmi ai loro sentimenti e ai loro progetti con quella cortesia che si aspetta da un ospite, e di conseguenza dissi a Clerval che desideravo compiere da solo il giro della Scozia. «Divertiti», dissi, «e fissiamo qui il nostro luogo di appuntamento. Starò assente un paio di mesi, ma tu non interessarti ai miei spostamenti, te ne scongiuro. Lasciami per qualche tempo alla pace e alla solitudine. Al mio ritorno spero di avere il cuore più leggero e uno stato d'animo più consono al tuo». Henri cercò di dissuadermi, ma vedendomi ben deciso nella mia risoluzione non insistette. Mi pregò di scrivergli spesso. «Avrei preferito accompagnarti nei tuoi vagabondaggi», disse, «piuttosto che rimanere con questi scozzesi che non conosco. Torna in fretta, amico mio, così che possa sentirmi in un certo modo a casa, cosa che mi è impossibile in tua assenza». Dopo essermi separato dal mio amico, decisi di visitare qualche angolo remoto della Scozia e di terminare il mio lavoro in solitudine. Ero certo che il mostro mi aveva seguito e che quando avessi finito la mia opera, si sarebbe presentato a me per reclamare la sua compagna. Presa questa decisione, attraversai gli altopiani settentrionali e fissai il teatro dei miei lavori in una delle più remote delle isole Orcadi. Era un luogo adatto ai miei scopi, poco più di una roccia sui cui fianchi a picco le onde venivano a infrangersi di continuo. Il suolo, arido, offriva scarso foraggio alle poche mucche striminzite e un poco di avena agli abitanti, 5 in tutto, che con le loro membra scarne e ossute davano a vedere quanto fosse misero il loro sostentamento. Verdure, pane, quando si permettevano simili lussi, e persino l'acqua dolce provenivano dalla terraferma, che distava 5 miglia circa. Su tutta l'isola c'erano appena 3 miserabili tuguri, e uno di questi era vuoto quando io arrivai. Lo presi in affitto. Era composto di 2 camere soltanto, che mostravano lo squallore della miseria più nera. La paglia del letto era caduta, i muri non avevano più intonaco, la porta era scivolata dai cardini. Ordinai che tutto fosse riparato, acquistai qualche mobile e presi possesso della mia dimora, avvenimento, questo, che avrebbe senza dubbio destato un certo stupore, se tutti i sensi degli isolani non fossero stati ottenebrati dal bisogno e dalla più squallida povertà. Così come stavano le cose, vivevo senza che nessuno mi osservasse o mi molestasse. Quasi neppure mi ringraziavano per le elemosine che distribuivo sotto forma di cibo o di abiti, tanto le sofferenze rendono ottuse anche le più elementari sensazioni umane. In questo rifugio dedicavo il giorno al lavoro, ma la sera, quando il tempo lo permetteva, passeggiavo sulla riva sassosa del mare, ascoltando il fragore delle onde che venivano a infrangersi ai miei piedi. Era una scena monotona, insieme mutevole. Pensavo alla Svizzera. Era ben diversa da questo panorama desolato e sconvolgente. Le sue colline sono coperte di vigne, le sue pianure disseminate di casette, le une vicino alle altre. I suoi bei laghi riflettono un cielo azzurro e sereno, e quando il vento li sconvolge, il loro tumulto è il gioco di un fanciullo vivace, se lo si paragona al ruggito del possente oceano. In questo modo distribuii le mie occupazioni al mio arrivo. Ma a mano che procedeva, il mio lavoro si faceva sempre più orribile e arduo. Qualche volta, per diversi giorni, non riuscivo a decidermi a entrare nel laboratorio. Altre volte, invece, mi affaticavo giorno e notte per condurre a termine la mia opera. Mi ero accinto a qualcosa di veramente spaventoso. Durante il mio primo esperimento, una specie di entusiasmo frenetico mi aveva reso cieco all'orrore di ciò che stavo facendo. La mia mente era fissa ai progressi del mio lavoro, e i miei occhi erano ciechi alla mostruosità dell'operazione. Ora invece lavoravo a sangue freddo, e il mio cuore spesso si ritraeva disgustato dinanzi all'opera delle mie mani. In questa situazione, occupato nel più odioso dei lavori, immerso in una solitudine dove nulla poteva distrarre per un solo istante la mia attenzione da ciò che stavo facendo, divenni di umore mutevole. Mi feci irrequieto e nervoso. Temevo ogni momento di incontrare il mio persecutore. Qualche volta sedevo con gli occhi fissi a terra e non osavo sollevarli per paura di vederlo davanti a me. Non osavo vagare lungi dallo sguardo dei miei simili, perché egli non approfittasse della mia solitudine per venire a reclamare la sua compagna. Continuavo intanto a lavorare, e la mia opera era già a buon punto. Guardavo al suo compimento con una speranza trepida e ansiosa che non mi fidavo però a interrogare, ma a cui si univano oscuri presentimenti che mi stringevano il cuore.